Milano. Vorrei provare prima a fare una piccolissima sintesi in tedesco, una paginetta, in modo che tra l'altro anche per tutti sia più chiaro lo schema generale. Wie von Karl Barth gezogene Linie von Luther durch Schleiermacher zu Feuerbach stimmt mit der Selbstinterpretation überein, die Feuerbach selbst in der Reichszeit gegeben hat. Aus diesem Grund eben ist sie einer geschichtlichen Überprüfung zu unterwerfen. Der Parallelismus mit Luther ist aufschlussreich. Neuere Studien haben gezeigt, dass Feuerbach sich mit den Werken Luthers erst nach der ersten Auflage des Wesens des Christentums, also erst nach der Erklärung seines Atheismus, intensiv und direkt befasst. Luther ist also des Atheismus Feuerbachs überhaupt nicht verantwortlich. Vielmehr wurde sein Einfluss zum Anlass einer positiveren Einstellung zur Religion. Der Fall Schleiermachers ist ähnlich. Während der Berliner Jahre wurde Feuerbach gänzlich von Hegel beeinflusst, umfasste zuerst seinem Programm als Kampf gegen die christliche Subjektivität auch von Schleiermacher. Erst nach der ersten Auflage des Wesens des Christentums näherte er sich an Schleiermacher an. Das Wesen der Religion beruht auf dem Abhängigkeitsgefühl, und zwar mit offensichtlichem Hinweis auf Schleiermacher. Freilich ist ihr das strategische Ziel nicht zu verleugnen. Aber die Begegnung mit Schleiermacher führte mit sich ein tieferes Bewusstsein der Endlichkeit des Menschen und der Notwendigkeit irgendwelcher ursprünglichen Religion. Und das kommt besonders heraus aus den Anschriften, die bald darauf von mir veröffentlicht werden sind. Aus diesem Bewusstsein der Endlichkeit des Menschen entfaltete sich auch eine gnosiologische Entwicklung zum dialektischen Verständnis der Beziehung zwischen dem Menschen und dem Universum. Auch auf diesem Standpunkt ist eine gewisse Nähe ersichtlich. Dieser Nähe aber war Feuerbach unbewusst. Die Vermittlung des Pietismus und der Hegelschen Polemik gegen Schleiermacher verhinderten in ihm ein klares Bewusstsein. Nicht nur von dem, was Schleiermacher an sich bedeutete, sondern auch von dem, was er in ihm dunkel wahrgenommen hatte. Also die Teil von Hegel selbst stammende, von Barth neu gezogene Linie ist nicht nur gegen Schleiermacher, sondern auch gegen Feuerbach unrecht. Il punto di partenza della comunicazione, che eventualmente potrà essere anche un po' più rapida adesso, è il famoso racconto che Heinrich Benecke ha lasciato riguardo a Feuerbach, che sessantenne, nella fase estrema del suo ateismo e naturalismo, si sarebbe fermato in visita a Berlino davanti alla chiesa della Trinità e avrebbe rievocato con nostalgia la fortuna della sua gioventù, quando la domenica mattina presto si recava a sentire Schleiermacher, predicatore, dice lui, cito, acuto, eloquente, creativo, che in un'unica identica sequenza concettuale era ora mistico, ora panteista, ora di nuovo Spinoza, ora Platone e Paolo. E questa è sempre stata presa come testimonianza del fatto che ci sia un influsso di Schleiermacher sul giovane Feuerbach. E questo dato è stato anche il supporto dell'interpretazione di Barth, che appunto farebbe discendere questa interpretazione antropologica del cristianesimo dalla soggettività di Schleiermacher. Come sapete, poi Barth risaliva anche oltre e arrivava a Lutero, almeno a una tendenza già soggettivistica in Lutero, in quella fede che è la creatrice quasi della divinità, dice nel testo della teologia protestante nel XIX secolo. Ora, proprio il riferimento a Lutero ha permesso di rivedere tutta questa linea e negli ultimi 15 anni sono usciti vari studi proprio su questo rapporto tra Feuerbach e Lutero. Da un lato, infatti, Feuerbach sempre sottolinea la sua dipendenza, dice lui, da Lutero. Dall'altro lato, però, gli studiosi recenti, Wallmann, Glass, eccetera, hanno dimostrato che fino all'essenza del cristianesimo, quindi fino al 1841, e quindi fino alla dichiarazione del suo ateismo, Feuerbach non conosceva direttamente Lutero. Le sue citazioni sono sempre di seconda mano. E solo dopo la prima edizione dell'essenza del cristianesimo si diede a studiare Lutero, accumulando una massa enorme di citazioni che poi mise nell'appendice dell'essenza del cristianesimo. E questo perché? Perché voleva difendersi dagli attacchi dei teologi protestanti. Quindi non è vero che Lutero sia all'origine dell'ispirazione di Feuerbach, almeno direttamente. Piuttosto è stato poi dimostrato, partendo da questo fatto, che proprio dopo l'essenza del cristianesimo cambia l'atteggiamento di Feuerbach nei confronti della religione. Subito dopo, nel 1842, Feuerbach dice che la religione non è soltanto proiezione fantastica, ma è anche qualcosa che investe tutto l'uomo, molto più che la filosofia. Addirittura dice, anche questo è un testo che è stato edito solo recentemente nel 1966, dice: tutti in un certo senso dobbiamo essere religiosi. Naturalmente il contatto con Lutero fu importante proprio perché si scoprì la globalità della religione e la dinamicità della religione. Anche il caso di Schleiermacher è analogo. In gioventù, se noi prendiamo l'epistolare, non abbiamo nessun dato che confermi quella testimonianza di Heinrich Tenné, che piuttosto noi vediamo, come sempre, almeno in due lettere, Feuerbach dica che per il momento non ha tempo di seguire Schleiermacher nelle sue lezioni. E noi vediamo come, influenzato in questo momento da Hegel, formuli il suo programma come un programma di lotta contro la soggettività cristiana. C'è anche un piccolo testo, al quale poi si riferirà altre volte, nel Gedanken, dove proprio c'è una critica, una presa, diciamo, di posizione nei confronti di Schleiermacher. Solo dopo la prima edizione dell'essenza del cristianesimo ritornò e riscoprì Schleiermacher. Difatti, noi vediamo come in questo momento, nella necessità di sganciare il suo ateismo dalla scuola hegeliana e soprattutto da Bruno Bauer, si richiamò a Schleiermacher dicendo che non condivideva le critiche di Hegel. E difatti, subito dopo si diede a scrivere l'essenza della religione, che non è una continuazione dell'essenza del cristianesimo, è una cosa un po' diversa, è un'interpretazione diversa della religione, si diede a confrontarsi con Schleiermacher. In effetti quest'opera si basa tutta sul sentimento di dipendenza dell'uomo, sentimento di dipendenza che viene molto rivalutato rispetto a quanto invece precedentemente Feuerbach stesso aveva detto. Rispetto a questo punto diciamo, c'è qui l'unico mio contributo, perché mentre nell'opera definitiva che conosciamo c'è solo l'accenno all'essenza, al sentimento di dipendenza e basta, in questi inediti che costituiscono la prima redazione dell'opera c'è un confronto diretto con Schleiermacher. E proprio la prima pagina dell'essenza della religione, nella prima redazione che verrà pubblicata, so, appena sarà possibile, nella prima pagina, Feuerbach parte proprio dalla famosa obiezione di Hegel, secondo cui anche il cane, sentendosi dipendente, dovrebbe avere religione, e contesta proprio questa obiezione di Hegel, facendo presente come Schleiermacher parli di coscienza, e quindi non si può così semplicemente ridurre tutto a sentimento di dipendenza in modo molto vago. E proprio in questo contesto, nel secondo foglio, si tratta di un centinaio di fogli presso poco, che poi non vennero completati, e poi si rimise a riscrivere tutta l'essenza della religione, saltando anche un po' questi pezzetti. C'è per esempio nel secondo foglio questa frase: in questo senso, dice Feuerbach, aver religione significa pensare alla propria fine, sentire e sapere di essere un ente finito. Chi pensa alla propria fine non si innalza con superbia arroganza al di sopra degli altri, è umile nel vero senso della parola. Ha fisso il suo pensiero all'idea che ogni cosa ha il suo limite, il suo scopo, che tutto è finito e basta. Ecco, il discorso della limitatezza dell'uomo è un discorso che bandisce quelle interpretazioni di Feuerbach come colui che avrebbe riproposto il mito di Prometeo. Almeno questo non c'è più in questo periodo. Al massimo si può ritrovare qualche cosa solo nell'essenza del cristianesimo in alcuni passaggi. In realtà viene sempre sottolineato il limite dell'uomo. In contrasto con il limite dell'uomo c'è quello che non è l'uomo. E anche qui bisogna seguire lo sviluppo per vedere come non ci sia un semplice naturalismo, come si dice, ma ci sia una problematica legata all'universo. Anche qui c'è un collegamento tra Schleiermacher e Feuerbach, una vicinanza, perché dietro tutti e due c'è Spinoza, ammirato moltissimo da Feuerbach come da Schleiermacher. Certo, Feuerbach esclude un Dio trascendente, questo è vero, e anche nell'essenza della religione viene escluso, però la natura in sé rimane incomprensibile all'uomo. Quindi l'uomo non può mai pretendere con le sue categorie di comprendere la natura interamente. C'è il concetto del limite dell'uomo che viene proprio sottolineato nell'essenza della religione in un famoso paragrafo che poi fu molto contestato soprattutto da Rudolf Hein. Conclusione. Da questo confronto con Schleiermacher, la posizione anche di Feuerbach diventa molto, secondo me, molto più interessante, perché è un ateismo che si presenta come un ateismo problematico, non come un ateismo chiuso. Certamente c'è un influsso di Schleiermacher, che è documentabile adesso attraverso gli inediti. Certo, Feuerbach non si rese conto di questo, soprattutto non si rese conto dell'influsso positivo che aveva avuto su di lui Schleiermacher, come dell'influsso che aveva avuto su di lui Lutero. Questo anche per un motivo che, diciamo, è forse fondamentale. Il fatto che dietro questo incontro con Lutero e con Schleiermacher stavano le mediazioni già presenti in Feuerbach, la mediazione del pietismo, che è stato proprio recentemente ben analizzato in Feuerbach, abbiamo molti inediti recentemente pubblicati sulla religiosità pietistica di Feuerbach e anche sulla sua vicinanza a Herder, al romanticismo, prima dell'incontro con Hegel, le mediazioni pietistiche che quindi portarono Feuerbach sempre a ridurre la portata di Schleiermacher e di Lutero, e in secondo luogo la mediazione di Hegel. Feuerbach si avvicinò a Schleiermacher attraverso la polemica di Hegel, e Hegel naturalmente limitò la possibilità di comprendere Schleiermacher. Hegel aveva accusato nelle sue lezioni sulla filosofia della religione, aveva accusato Schleiermacher di portare all'empirismo e all'ateismo. Questo avvicinò Feuerbach a Schleiermacher, ma impedì a lui di capire che c'era qualcosa d'altro che lui aveva avvertito in Schleiermacher, ed era il problema umano dell'uomo di fronte all'altro.